2024 di Enrico Pagliarini. Iniziamo così il mese di settembre, puntata del primo settembre. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Vi ricordo che anche questa puntata sarà, al termine della nostra trasmissione, disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24, un servizio molto utile, molto comodo per riascoltare i nostri programmi, per ascoltare quando volete anche a pezzetti le nostre trasmissioni. Vi ricordo che dal 15 di settembre riprenderemo la nostra versione tradizionale di 2024, quindi abbandoneremo la mezz'ora estiva e riprenderemo la stagione normale del nostro programma. Ci saranno molti temi che approfondiremo, che toccheremo, anzi vi invito a suggerirci temi sia attraverso la nostra pagina su Facebook ma anche attraverso la nostra posta elettronica, quindi potete scrivere un messaggio a 2024 scritto in cifra 2024@radio24.it. Tra i temi ve ne segnalo già uno che diventerà sempre più interessante mano a mano che passeranno le settimane. Allora, alla fine dell'anno, e uno può dire, vabbè, fine dell'anno manca ancora un sacco di tempo, allora, dal 3 al 14 dicembre si terrà negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, una conferenza che si chiama World Conference of International Telecommunications, quindi la conferenza mondiale delle telecomunicazioni. Può sembrare uno dei tanti appuntamenti che di anno in anno, mese dopo mese, ci sono un po' in tutto il mondo, ma qua stiamo parlando dell'ITU. Allora, l'ITU è l'Organizzazione Internazionale delle Telecomunicazioni, è un organismo dell'ONU, delle Nazioni Unite, non molto conosciuto per la verità, e devo dire che molto spesso quello che viene deciso all'interno dell'ITU è roba da addetti ai lavori, serve per le società di telecomunicazioni. Ma questo appuntamento è particolarmente importante perché si cercherà di ridefinire i principi che regolano la grande rete delle telecomunicazioni e soprattutto Internet. Ci sono, uno potrebbe dire, beh, Internet è basato su poche regole perché è molto libera e molte cose si possono fare all'interno di Internet. Questo è verissimo, infatti molti sostengono che queste regole, questi principi non debbano essere toccati. C'è un'altra corrente di pensiero che tra l'altro propone i cambiamenti che verranno discussi a questa conferenza, che invece dice no, bisogna rendere più stretti i vincoli della rete Internet, bisogna regolare di più la rete Internet. E alcuni si preoccupano di questo perché tra gli altri paesi a capo di queste delegazioni, di questi gruppi che tentano e propongono questo cambiamento, ci sono paesi che dal punto di vista della libertà d'espressione su Internet non sono sicuramente i primi della classe. Citiamo la Cina, citiamo la Russia, ma insomma potremmo fare una lunga lista. Allora, questa conferenza sicuramente sarà una conferenza che non sarà solamente per addetti ai lavori. A questi lavori partecipano le delegazioni di tutti i paesi che fanno parte dell'Organizzazione Internazionale delle Telecomunicazioni, ma tutti i cittadini, o almeno tutte le persone che usano Internet, che sono preoccupate o dovrebbero essere preoccupate di quello che accade in Internet, soprattutto dal punto di vista della libertà di espressione, dovrebbero cercare di seguire le notizie. Quindi questo tema ve lo anticipo perché già ci sono da mesi, tra i più appassionati, polemiche, critiche rispetto a certe tendenze che si stanno vedendo, ma vedrete che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se ne saprà sempre di più. C'è una sorta di consultazione pubblica che alcuni hanno definito praticamente inutile sul sito internet dell'ITU in vista di questa conferenza, ma io vi invito a raccogliere anche su internet pareri, opinioni, a leggervi un po' di notizie. Allora, detto e anticipato questo, vi presento l'ospite di questa settimana, perché questa settimana vogliamo cercare di capire in concreto una cosa che diciamo spesso 2024, visto che siamo grandi sostenitori, io sono un grande sostenitore del fatto, ma fortunatamente sono in buona compagnia da persone molto più autorevoli, che la tecnologia è oggi il più importante fattore competitivo, non solo per le nostre aziende ma anche per il sistema paese, ed è per questo che spesso insistiamo su certi temi, ad esempio la diffusione della banda larga, eccetera eccetera. Allora, visto che diciamo questo, siamo fortemente convinti, fortunatamente supportati da studi, ricerche, analisi, dati, vi presento Gabriele Moretti, che è amministratore delegato di Contacta. Benvenuto a 2024. Buongiorno dottor Pagliarini e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Noi oggi vogliamo parlare di call center e di tecnologia, che è un argomento un po' strano, potremmo dire, anche perché il mondo dei call center da sempre è stato visto con ottiche variegate, ma spesso sotto una luce non proprio positiva, giusto? Voi siete un'azienda che fa call center, giusto? Sì, giusto. Il nostro settore è un settore famoso per una serie di applicazioni imprenditoriali improvvisate. Invece la nostra scelta di puntare sulla tecnologia come leva competitiva per lo sviluppo di un'azienda sana e industriale sicuramente è quello che ci differenzia maggiormente sul mercato. Ci sono molte aziende in Italia che si occupano di call center. Sì, è un settore in cui c'erano molte aziende, quindi sicuramente si parla, diciamo, le ricerche di mercato parlano di 300 aziende. Sicuramente negli anni questo settore si è concentrato, come capita spesso nei settori dove la tecnologia e la specializzazione possono fare la differenza. Oggi diciamo che è un settore con un centinaio di aziende e in cui i primi 10 player fanno l'80% dei volumi. Senta, quando noi diciamo che voi vi siete concentrati sulla tecnologia, intendiamo dire che cosa? La tecnologia nel nostro settore ha due valenze fondamentali. Da un lato una valenza di ottimizzazione industriale di processo, quindi un sistema che permetta a chi gestisce questo tipo di servizio in outsourcing di ottimizzare le proprie risorse al fine di ottenere un risultato competitivo. Dall'altro invece la tecnologia vista come leva di sviluppo dei servizi dei nostri committenti, che attraverso l'accesso tramite degli esperti quali siamo noi a nuovi strumenti tecnologici possono fornire ai loro clienti finali servizi innovativi. Sì, stiamo parlando fondamentalmente di software, giusto? Sì, sostanzialmente software. Noi viviamo in questo mondo in cui ci sono davvero tantissimi ingranaggi, ma che non sono ingranaggi fisici, sono ingranaggi di fasi e processi. Ci faccia capire, allora, un operatore di un call center classico ha davanti un computer, giusto? Che gli suggerisce un po' di cose. Allora, nel vostro caso, dove sta il vantaggio competitivo che voi avete costruito facendo software internamente, tra l'altro? Che questo è un altro fattore. Le più grandi aziende che puntano sulla tecnologia, spesso, non è sempre detto, ma molto spesso si fanno i software in casa. E anche voi vi siete fatti i software in casa. Che cosa ha davanti l'operatore? Sì, intanto il primo punto è che per fare in modo che quella persona sia davanti a una postazione al momento giusto, cioè quando arrivano le chiamate, abbiamo già dovuto usare almeno un paio di strati di software prima. Quindi il nostro lavoro purtroppo è un lavoro di quelli che non si vedono e non si percepiscono, però è un lavoro molto attento di pianificazione delle risorse. Cioè noi dobbiamo fare in modo che affinché un nostro dipendente possa rispondere alle chiamate che arrivano al momento giusto, sia lì e prima non farci di tutto. Troppo attendere al telefono per non far attendere i clienti al telefono o per non averlo fermo quando magari non ci sono chiamate, no? Quindi noi abbiamo, prima di arrivare ai software di cui adesso parliamo, che sono i software poi che vengono utilizzati dai nostri operatori per dare assistenza ai clienti, ci sono tutta una serie di technicalities che ci permettono di pianificare, organizzare il nostro lavoro in modo tale che quella persona non solo sia lì al momento giusto, ma abbia tutte le competenze per rispondere ai clienti finali. Sì, perché comunque sono tutti in una sala, non è che nei momenti di picco massimo uno viene intercettato mentre è a casa che lava i piatti. A questo non siamo ancora arrivati, nel senso che abbiamo delle sedi fisiche, in realtà abbiamo tre sedi, immaginiamo che parliamo di 2.000 persone, parliamo di 200.000 telefonate al giorno, quindi parliamo di numeri davvero importanti. E noi riusciamo in qualche modo a coordinare tutte queste attività grazie a un algoritmo che abbiamo sviluppato noi con il nostro team di ingegneri, che ci permette davvero di ottenere dei massimi risultati di efficienza e di efficacia nella piena compatibilità con i contratti nazionali collettivi di lavoro, che questo secondo me è l'aspetto che rende industria il nostro modello di business. Certo, allora l'ingegnere Moretti è modesto perché dice: abbiamo sviluppato con il nostro team di ingegneri. In realtà è stato lei ingegnere a inventarsi questo algoritmo. Diciamo che l'idea è partita da me all'inizio, poi chiaramente per farlo diventare un prodotto così sofisticato come oggi abbiamo investito un sacco di... Sì, lei ha sottolineato il fatto che nel vostro business c'è molto precariato e voi avete detto: con la tecnologia cerchiamo di ridurlo a zero. Certo. Certo, perché io credo che l'outsourcing di servizi debba essere un modo per i committenti, cioè per le grandi aziende che utilizzano questi servizi, come alcuni nostri clienti, come Lavazza, Ferrero, Fiat, Agos Ducato nel settore finanziario, che banca, quindi grosse strutture, abbiano bisogno non tanto di un partner per ridurre i costi del lavoro, perché non penso che sia questa la chiave di lettura dell'outsourcing, ma hanno bisogno di un partner che gli permetta, con la sua specializzazione, di ottenere un qualche cosa di diverso rispetto a quello che potrebbe ottenere facendosi in casa il servizio. Sì, certo. Nel nostro settore, purtroppo, che è un settore nato una quindicina d'anni fa, come noi, molti imprenditori invece hanno visto l'utilizzo dei contratti a progetto e quindi il risparmio sul costo del lavoro come leva competitiva, quindi non puntando sul miglioramento del servizio e dell'efficienza di processo, ma puntando esclusivamente sul risparmio sul costo del lavoro, quindi creando di fatto probabilmente dei business di breve periodo che però hanno drogato in modo forte il nostro mercato. Sì. Senta, che cosa fa il software che un operatore ha davanti tutti i giorni e che utilizza quando risponde alle chiamate che arrivano? Quindi diciamo che siamo arrivati finalmente all'attività diretta. Un operatore, un agente che deve rispondere a chi chiama dall'esterno. Chiaramente noi abbiamo bisogno dei sistemi dei committenti, perché il servizio che facciamo ai clienti finali è quello di rispondere per conto dei nostri committenti. E qui, chiaramente, oltre ad appoggiarci sulle più svariate tecnologie che ci vengono fornite dal committente, molto spesso noi costruiamo dei layer di sintesi che permettono all'operatore di riuscire a dare molto spesso quelle informazioni che sono magari diffuse in più schermate dell'applicativo CRM del committente e che quindi renderebbero più difficoltoso il servizio al cliente. Questo penso che sia il contributo che possiamo dare, cioè dare quel po' più di intelligenza al servizio clienti che finalmente possa far pensare ai consumatori finali o un call center che funziona, no? Perché sappiamo benissimo che c'è questo luogo comune che quando chiami un call center entri nel panico perché non riesci mai ad arrivare alla soluzione. Che è ancora molto spesso vero. È ancora molto spesso vero, certo. Noi cerchiamo di fare invece quell'eccellenza che permette ai nostri committenti invece di avere dei risultati molto positivi in termini di feedback da parte dei clienti. E devo dire che misuriamo anche questo, chiaramente, il feedback dei clienti, e ci piace misurarci su questo anche nei confronti dei committenti, e siamo davvero soddisfatti perché siamo la dimostrazione che con l'ingegno si possono ottenere molti risultati. 2024. Stiamo parlando con l'ingegnere Gabriele Moretti, amministratore delegato di Contatta, di come la tecnologia in un settore che può sembrare semplice, in realtà sta diventando sempre più complicato, come il mondo dei call center, che non è più solo call center ma è anche altri canali, le chat, Facebook, l'email, eccetera eccetera, come la tecnologia può essere un fattore competitivo. Dunque, ingegnere, ci dica in che cosa può dare un valore aggiunto la tecnologia di fronte magari ad una domanda che io faccio quando chiamo per sapere un'informazione. Al di là di puntare molto sulla competenza e sulla formazione del personale, che abbiamo trascurato di dire, ma dandola per scontata, ma in realtà è un aspetto fondamentale, perché se tu anche hai il campo giusto sulla pagina giusta del tuo software, se l'operatore non è più che sicuro di quello, non è competente, sì, sì, sicuramente non si ottiene, sì, un grande risultato. Quindi, primo punto, formazione. Formazione, ingegnere, diciamolo, che eroga il software decide i momenti in cui viene fatta questa formazione, in quarti d'ora, mezz'ora, magari in momenti morti in cui non arrivano telefonate, eccetera eccetera. Parlando di invece come si fa a migliorare un call center in modo tale che la percezione del committente, cioè del cliente ultimo, sia positiva, beh, sicuramente noi siamo costretti a intervenire sui processi dei committenti, cioè noi dobbiamo avere le antenne per poter captare, visto che noi gestiamo questo fiume di telefonate continuamente per poter captare le problematiche del cliente e comunicarle al nostro committente. Qui la tecnologia è davvero avanti, nel senso che noi abbiamo una serie di soluzioni tecnologiche che sono davvero avanzate, che sembrano quasi magia, no? Quando la tecnologia è così sofisticata da stupirti, che ci permettono di analizzare in tempo reale tutte le telefonate, individuando delle problematiche neanche previste dai sistemi di CRM, perché sono problematiche che non erano state pensate, e quindi intervenire chiamando chiaramente il nostro committente e mettendo in evidenza eventuali processi o fasi di processo o collo di bottiglia, in modo tale da risolvere alla base il problema che si genera. Mi fa un esempio? Ma guardi, un esempio per, adesso non dirò il nome della compagnia di assicurazioni, però un nostro cliente assicurazioni praticamente aveva fatto un'offerta speciale per cui dava per 2 mesi un'assicurazione gratis, e allo scadere di quei 60 giorni il cliente poteva chiamare per disdire. Chiaramente disdicendo non avrebbe dovuto pagare nulla. Beh, nel numero di customer service che riceveva queste chiamate abbiamo applicato questa tecnologia che permette di entrare nel merito semantico di quello che dice il chiamante. Sostanzialmente abbiamo evidenziato che il 70% delle disdette era generato da una sfiducia generata dal ritardo nel ricevere della documentazione. Noi siamo intervenuti sul processo di spedizione e di fatto si è dimezzata la percentuale di disdette. Ma questo per fare un esempio con valenza commerciale. Lei ha citato la semantica. Sì. Che è un tema di cui non troppo spesso, anche perché andremo troppo sul complicato, però abbiamo parlato 2024, cioè la capacità del software, della tecnologia di comprendere veramente quello che c'è scritto in un documento, quello che viene detto in una telefonata. Come funziona questo software, questo sistema? Diciamo che sono dei sistemi molto sofisticati che come prima cosa trasformano chiaramente le parole in testo, e poi il riconoscimento della voce. Poi elaborano chiaramente con logica semantica, quindi andando a capire la posizione delle parole in una frase, quale può essere il significato. E poi, e qui viene un po' più il nostro ruolo, attraverso dei motori di analisi che ti permettono di utilizzare il motore semantico come fonte da cui trarre le informazioni, ci permette di classificare le telefonate a seconda di parole chiave. Cioè se, che ne so, un vostro committente fosse un'azienda che si occupa di gastronomia e su 10.000 telefonate la parola più ricorrente è pomodoro, si capisce che bisogna intervenire in qualche modo pomodoro, sul pomodoro. Esatto. Abbiamo fatto un esempio. Però questo è un po' il modus operandi di questa tecnologia, ad esempio. Sì, il modus operandi di questa tecnologia ed è, credo, il futuro del nostro modello di business, nel senso che noi leggiamo costantemente di delocalizzazioni, di ricerca chiaramente da parte dei committenti che giustamente sono attenti al cost saving, di soluzioni più economiche nella legalità. Io penso che la soluzione per mantenere diciamo la località italiana delle nostre imprese, e io sono una di quelle persone che ci crede fortemente, tanto è vero che non ha mai delocalizzato, sia quella di poter fornire ai nostri committenti altissima qualità, eccellenza, e quindi poter dire al nostro committente: ma perché vuoi andare a risparmiare il 30% del costo del lavoro quando magari con le nostre persone più preparate, con le nostre tecnologie più avanzate, possiamo ridurre le chiamate e migliorare il servizio al cliente? Dire questo da parte di chi ha un call center sembra paradossale, no? Perché riduci il tuo prodotto. In realtà io penso che sia proprio l'intelligenza che oggi possa fare la differenza sul mercato, cioè quell'intelligenza che da un lato è vero che ti fa perdere magari del volume, ma ti dà molta più qualità e quindi permette anche ai nostri committenti magari di poter pagare un po' di più la telefonata, perché quella di una telefonata che genera valore, molto più valore rispetto a tante telefonate in batteria all'estero. Parlando di geolocalizzazione, che è un tema di cui si parla spesso, esistono già delle applicazioni nel settore, anche nella vostra azienda, che ne so, una volta che tu mi hai dato il consenso, vedo che ti trovi con il tuo smartphone in una tal zona e ti chiamo, quindi proattivamente ti dico: guarda che nel tal negozio, nella tal piazza c'è un'offerta speciale. Sicuramente una bella domanda, perché penso che sia un settore in espansione. Però teniamo sempre conto che la fantasia delle aziende a volte molto più arretrata rispetto alla disponibilità tecnologica, alla sua di sicuro, alla sua di sicuro. Questo è interessante, questo è molto interessante, perché infatti mi verrebbe da dire, una tecnologia come quella che oggi è disponibile sugli smartphone potrebbe sostituire l'89-24-24. Ecco, questa è... Allora, io 15 anni fa, quando ho iniziato questo lavoro, sentivo già dire, ah, ma internet toglierà questo lavoro, vai, stai andando in un settore molto a rischio. Beh, tanto io invece credo che internet sia stato un driver importantissimo per il nostro settore. Perché? Perché un'azienda organizzata in ottica, diciamo, customer oriented, comunque in ottica internet, è un'azienda che ha fatto un lavoro di ottimizzazione dei propri processi all'interno molto spinto e che ha dei processi molto orientati al cliente. Essendo il nostro business, come dicevo prima, non solo la risposta telefonica, ma anche la gestione di fasi, di processi, ecco che internet è stato un driver di sviluppo. E in effetti oggi siamo 2000 e 15 anni fa eravamo 2, no? Sì. Quindi, vediamo ancora una crescita nel mercato. Sicuramente su alcune nicchie di servizi potrebbero cambiare le cose. Lei prima, Moretti, mi diceva, oltre alla telefonata ci sono mille altri canali, quindi internet e tutti i canali che sono su internet, social network, l'email, eccetera. Utilizzate anche la chat, ci sono dei siti internet che hanno una mascherina dove si possono fare domande ad un operatore. Io li ho utilizzati, mi sembra che funzionino. Il tema della chat, secondo me, è un tema molto interessante, molto affascinante, perché addirittura permette al contact center di essere proattivo rispetto all'esigenza del committente, cioè del cliente finale. Cioè io, lato mio, posso vedere chi sta browsando sul mio sito, dove sta passando, e in quel momento push entrargli sulla sua pagina web. Quindi si parla proprio di servizi personalizzati ai massimi livelli. Ingegner Moretti, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie mille, dottor Pagliarini. Chiacchierata stimolante, interessante. Se volete riascoltarla, c'è il podcast di 2024 disponibile tra poco sul nostro sito internet. Potete anche abbonarvi al nostro servizio. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. Ci trovate anche su Facebook, alla nostra email 2024@radio24.it, oppure su Twitter @Pagliarini oppure 2024_R24. Un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 31 seconds and we're on for auto sequence start.